Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Ricominciamo insieme una nuova settimana e, come un tragico rito che puntualmente purtroppo si ripete, eccoci nella nostra trasmissione ad affrontare una nuova emergenza umanitaria. Ci capita purtroppo di frequente, l'ultima volta era stata un anno fa abbondante per la tragedia appunto di Haiti e quella giapponese che si sta consumando sotto i nostri occhi con effetti talmente devastanti di cui possiamo solo immaginare la portata, visto che siamo così lontani, ci coinvolge però emotivamente moltissimo. Come è accaduto un anno fa con il terremoto di Haiti, la rete italiana della solidarietà si è immediatamente messa in moto e allora per tutte le persone interessate a dare un contributo economico a tutti i soccorsi in movimento in terra nipponica, oggi vi spieghiamo come si stanno muovendo le grandi organizzazioni e quindi così cercheremo un po' di indirizzarvi se avete intenzione di effettuare delle donazioni, perché è sempre bene avere un quadro dettagliato della destinazione delle risorse che vengono raccolte e come vengono finalizzate. Tra l'altro va ricordato anche che le grandi organizzazioni umanitarie, le ONG, già in questo periodo stavano affrontando la non facile emergenza nordafricana. Purtroppo non ci si ferma mai, adesso è arrivato anche il cataclisma giapponese. Quindi sentiamo un po' come è possibile aiutare. Prima di presentarvi i nostri ospiti di questa mattina, voglio ricordarvi che i più attenti di voi si ricorderanno senz'altro che oggi avevamo in programma un'intervista al presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, banalmente rinviata alla prossima settimana, per cui Mastrapasqua sarà con noi nei prossimi giorni per spiegarci il tema che era appunto in programma, che sono le nuove modalità appunto di assunzione dei collaboratori familiari attraverso la procedura web. Allora, con chi parleremo questa mattina della rete di solidarietà che è subito partita anche in Italia, in maniera peraltro ancora molto concreta, e quindi questa concretezza significa anche ancora non aver pienamente stabilito ed organizzato un piano d'azione. Ce lo spiegheranno appunto con grande concretezza proprio i nostri ospiti di questa mattina, perché le iniziative specifiche verranno probabilmente comunicate e divulgate nelle prossime ore, ma già qualche anticipazione possiamo e siamo già in grado di darla. Allora intanto saluto e ringrazio per essere con noi Marco Bertotto, direttore di Agire, l'agenzia italiana risposta emergenze. Bertotto, buongiorno. Buongiorno. Poi saluto e ringrazio per essere con noi Paolo Beccegato, responsabile area internazionale di Caritas Italiana. Beccegato, buongiorno anche a lei. Buongiorno, grazie. Un saluto a Tommaso Della Longa, portavoce del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. Buongiorno. Buongiorno. Più tardi ci collegheremo con Gianni Milesi, presidente del CESVI, l'Associazione Indipendente Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo. CESVI è tra le organizzazioni radunate in Agire. Milesi in particolar modo ci spiegherà come sta iniziando il monitoraggio giapponese, ma per il CESVI adesso c'è un impegno molto forte in Libia e sentiremo appunto quali tipo di iniziative stanno portando avanti. Allora, se volete, come sempre, potete interagire con noi chiamandoci all'800 24 0024 oppure scrivendoci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Comincio con Marco Bertotto, come vi dicevo, direttore di Agire, l'agenzia italiana risposta a emergenze, perché effettivamente è un po' il portavoce di un bel gruppo molto importante di organizzazioni umanitarie. E a noi, siccome interessava particolarmente, Bertotto, sapere come vi state muovendo per supportare i bambini, allora io ci tenevo in particolar modo che lei ci raccontasse come si sta attrezzando l'attività di Save the Children. Peraltro, se non ho letto male, su alcuni giornali in questi giorni credo che per quello che riguarda Save the Children, insieme a VIS, che è un'altra appunto organizzazione aderente alla vostra, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo della Congregazione dei Salesiani, credo che queste due siano le uniche due ONG che hanno personale italiano presente sul campo in Giappone. Ci può confermare questo? Ma sono le uniche due ONG del network Agire. In realtà il Save the Children è presente al momento non con personale italiano, ma con una organizzazione locale attiva da più di 25 anni in Giappone. Sono le uniche nostre due organizzazioni presenti in Giappone. Noi abbiamo fin dalle primissime ore attivato un monitoraggio costante per cercare di capire non soltanto la situazione nel Giappone, ma nelle prime ore anche la possibile regionalizzazione del disastro con l'allarme tsunami che per fortuna dopo le prime ore è rientrato nei paesi fino al Pacifico, fino alle coste pacifiche dell'America Latina, aveva messo appunto in moto tutta la nostra rete di organizzazioni che erano presenti e sono presenti in quell'area. Al momento la situazione in Giappone è una situazione molto complessa. Noi siamo sostanzialmente in una fase di valutazione. VIS e Save the Children hanno attivato delle risposte immediate, hanno dei team di emergenza, in particolare Save the Children sta pianificando degli interventi legati proprio alla messa in sicurezza dei minori. I piani preliminari prevedono la costituzione di alcuni spazi a misura di bambino, cosiddetti, cioè delle strutture temporanee che vengono realizzate con l'obiettivo di fornire un supporto immediato in termini di prima assistenza, ma anche di supporto psicologico ai bambini. C'è una preoccupazione che riguarda la possibilità che ci siano molti bambini non accompagnati, che ci sia una priorità di intervento proprio a fronte di come dire, forme anche di disagio psicologico che è una immaginiamo situazione. Quanti possano essere rimasti senza genitori, quanti orfani quindi ci siano. Esattamente, questa è quindi le problematiche proprio del ricongiungimento e della protezione immediata sono quelle che emergono. C'è un discorso più generale da fare che riguarda la capacità di intervento in queste ore delle organizzazioni umanitarie e delle organizzazioni non governative, tenendo presente intanto una difficoltà logistica nel raggiungere le aree colpite dal terremoto, dallo tsunami, che è stata il vero elemento di problematica e di distruzione. E infatti, anche perché il Giappone, lo abbiamo ricordato più volte nei nostri speciali in questi giorni, comunque ha delle capacità logistiche e operative maturate in questi anni di esperienza. I rischi di terremoto il Giappone li conosceva molto bene, quindi dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione infrastrutturale delle città giapponesi era tutto più o meno ben predisposto. Di sicuro non si immaginava invece uno tsunami di questa portata. Bertotto. Sì, certo, le dimensioni di questo tsunami sono state assolutamente straordinarie, in qualche modo superiori alla stessa capacità di un paese così attrezzato per i terremoti, che anche ha una serie di sistemi e di meccanismi per rispondere a situazioni da tsunami. Ecco Bertotto, voi non avete ancora lanciato un appello di raccolta fondi congiunto, l'avete rinviato, questo appuntamento lo farete nelle prossime ore? Abbiamo fissato una nuova teleconference con tutte le nostre organizzazioni per assumere aggiornamenti dal campo e valutare l'opportunità di lanciare un appello. Questa esitazione è legata soprattutto alla particolarità del contesto. Stiamo parlando non di Haiti, ma della terza potenza al mondo, di un paese con capacità, risorse ed esperienza, e quindi quello che stiamo valutando è l'opportunità di lanciare un appello a nome delle nostre organizzazioni, ovvero la possibilità semplicemente di sostenere quelle organizzazioni di agire che già sono impegnate nell'emergenza nel paese senza aggiungere un'ulteriore sovrastruttura. La valutazione valutazione, come dire, di efficacia e anche di serietà nei confronti dei donatori. Certamente, quindi le organizzazioni molto grandi e molto serie si coordinano molto bene fra di loro e non è che si prende e si parte non appena un'emergenza scatta, ma naturalmente ci si prende anche qualche minuto di tempo per ragionare su quello che è necessario fare molto concretamente. Allora, volevo andare subito a Caritas Italiana, io fra un minuto e mezzo devo già andare in pausa, però poi sentirò, quindi chiedo ancora un minutino di pazienza a Tommaso Della Longa di Croce Rossa. Volevo andare a Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale di Caritas Italiana, perché ho ricevuto proprio due secondi fa l'ennesimo comunicato stampa aggiornato da parte della vostra organizzazione. Beccegato, da Caritas Italiana è già partito un primo contributo di 100.000 euro, finalizzato e destinato a che cosa? Dunque, lì sul posto la rete Caritas è abbastanza presente, nonostante non sia ipercapillarmente presente, però per dire, sono state colpite 4 Caritas diocesane a Sapporo, Sendai, Saitama e Tokyo. Ci sono decine di Caritas locali che stanno ospitando persone, fornendo cibo e generi di prima necessità. L'esperienza che abbiamo già avuto più che altro all'estero, cioè noi abbiamo visto Caritas Giappone quando veniva in contesti di solidarietà internazionale, evidentemente con la loro tipica organizzazione, efficacia ed efficienza. Ripensarli, concentrati su se stessi, effettivamente è uno scenario mai visto prima, però gli appelli che ci lanciano appunto Caritas Giappone sono ormai, siamo già al terzo, abbiamo già fatto delle teleconferenze anche durante il weekend e appunto il segnale che stanno dando è quello di un fortissimo coordinamento con gli altri, perché il governo giapponese evidentemente ha grandi capacità organizzative, però come ci è stato detto in questo caso è stato veramente straordinario l'impatto e la magnitudine di questo disastro. Il direttore di Caritas Giappone in particolare è una persona molto competente e appunto si stanno predisponendo decine di volontari che si stanno attivando su tutto il paese, una campagna di solidarietà interna fortissima con appelli lanciati alla popolazione, perché comunque è un paese enorme, insomma sono quasi 130 milioni di persone, e per loro come sempre l'attenzione prioritaria alle fasce più deboli, quello che è già stato detto, l'attenzione in particolare ai minori, il sostegno psicologico e sicuramente un impegno che non finirà con l'emergenza ma continuerà per tutta la riabilitazione e la ricostruzione che sarà inevitabile. E non dimentichiamo naturalmente anche la popolazione anziana. Allora, anche con lei adesso le chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo. Caritas ha attivato dei conti correnti dove è possibile appunto effettuare delle donazioni, poi vi do tutte quante le coordinate, la causale delle offerte o emergenza a Giappone, per chi li volesse vedere immediatamente si può collegare sul sito di Caritas per l'appunto. Intanto vi ricordo che potete interagire con noi questa mattina all'800 24 00 24 oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Il tema è l'attivazione della rete di solidarietà italiana per dare anche il nostro piccolo contributo, il nostro piccolo sostegno. Mi rendo conto che potrà essere solo una goccia in un oceano, ma è già qualcosa proprio per fronteggiare l'emergenza giapponese. A tra poco. Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Questa mattina abbiamo voluto anche noi aprire una nostra finestra, uno spaccato sulla tragedia giapponese, perché come ci è capitato spesso di fare, lo abbiamo fatto in occasione del terribile terremoto che ha colpito l'Aquila lo scorso anno con il terremoto ad Haiti, e ci capita appunto di dover affrontare queste emergenze per la parte che riguarda la rete di solidarietà che si attiva prontamente anche in Italia. Siccome ci sono molte famiglie sensibili a queste problematiche, vogliono dare il loro piccolo supporto, siccome l'Unione fa la forza, allora magari piccoli supporti portano a grandi contributi anche per gestire le emergenze in questo posto dove in questo momento manca di tutto, il cibo, le medicine. Ci sono tanti bambini che sono rimasti orfani e che pertanto appunto vanno supportati in ogni maniera possibile, con tanta forza appunto proprio per affrontare anche dal punto di vista psicologico questa tragedia, il nuovo disagio che stanno vivendo. Con noi questa mattina alcune delle organizzazioni più importanti che operano in questo campo. Abbiamo già sentito per una piccola parte, poi torneremo a coinvolgerli, Marco Bertotto, direttore di Agire, l'agenzia italiana risposta emergenza, un network di organizzazioni appunto umanitarie, ve ne ricordo qualcuna: Save the Children, ActionAid, LoveSea, il CESVI, di cui abbiamo peraltro il presidente che saluteremo tra qualche istante, VIS e tanti altri. Poi abbiamo sentito anche Paolo Beccegato, responsabile area internazionale di Caritas Italiana, anche se ancora non vi abbiamo dato i parametri, i termini appunto per poter supportare Caritas Italiana, che ha già erogato uno stanziamento da 100.000 euro destinato appunto al Giappone. Adesso saluto Tommaso Della Lunga, portavoce del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. Della Lunga, ancora buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per lo spazio ci state dando. Ecco, allora intanto adesso, a parte il fatto che anche voi so che state allestendo un numero, un SMS per consentire a chi lo volesse di fare delle donazioni rivolte a voi, leggevo sul vostro sito che il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha creato, questa è un'attività molto importante, per questo è importante anche sostenervi finanziariamente, un sito internet per consentire alle persone colpite dal sisma in Giappone di ritrovare i loro cari eventualmente scomparsi o dispersi durante la catastrofe, è così, vero? Sì, esattamente, questo, allora, la Croce Rossa Italiana è all'interno del movimento internazionale, quindi diciamo che i nostri interventi sono specifici e divisi per campi. Nello specifico il Comitato Internazionale di Croce Rossa si sta occupando in questo momento dei ricongiungimenti familiari non solo per le persone sul territorio giapponese, ma anche per i giapponesi che magari sono all'estero e non hanno più notizie dei loro cari. Quindi è stato approntato un sito internet proprio per questo e già stanno arrivando tantissime segnalazioni. Oltre a questo, fortunatamente la nostra consorella giapponese era già molto presente sul territorio e quindi ci sono centinaia di migliaia di volontari di Croce Rossa che fin dai primi istanti dopo il terremoto e dopo soprattutto il terribile tsunami stanno intervenendo sul campo sia per cercare le persone disperse, sia per il soccorso sanitario, sia per l'assistenza psicologica. Allora, stavo anticipando prima della vostra iniziativa, che non è ancora partita, ma credo che partirà nelle prossime ore, di allestimento di un numero di SMS appunto per consentire a chi lo volesse di fare delle donazioni. A che punto siete? Sì, esattamente. Noi allora subito, come prima cosa, abbiamo attivato sul nostro conto corrente bancario una causale pro emergenza Giappone e per avere informazioni si può andare sul nostro sito internet che è www.cri.it e poi abbiamo fatto una richiesta con gli operatori italiani di un SMS solidale. Penso e spero che nelle prossime ore potremo dare alla stampa i numeri per poi insomma dare la necessaria pubblicizzazione alla questione. Certo, e poi ulteriormente appunto Croce Rossa come finalizzerà queste risorse, appunto contribuendo appunto ad aiutare ulteriormente i vostri, chiamiamoli così, soci già sul campo, oppure c'è una destinazione precisa alla quale già state pensando? Allora, come prima cosa, ovviamente in questo momento c'è un nucleo di valutazione della Federazione Internazionale di Croce Rossa che è inviato sul campo per vedere anche gli interventi specifici, perché ovviamente davanti a una cosa del genere, oltre all'emergenza, c'è anche un intervento umanitario che va portato avanti nel tempo. Come regola di Croce Rossa, fino a quando la consorella che è presente sul campo non richiede un intervento di uomini, mezzi e volontari, per ora ci si mobilita per aiutare le attività della Croce Rossa giapponese, quindi i soldi e le donazioni che arriveranno dagli italiani verranno girate direttamente alla Croce Rossa giapponese, che poi rendiconterà, come noi poi facciamo abitualmente sul nostro sito, fino all'ultimo centesimo come vengono spesi i soldi dei donatori. E infatti, allora Gianni Milesi, ricordo anche che potete, se volete, chiamarci all'800240024 o al numero di SMS 349-238-6666 per dirci un po' insomma che cosa ne pensate. Vedo qualcuno che vuole, che così sta prenotando, si sta chiamando, poi però dice di non voler intervenire su questi temi. Ci dispiace, perché vorremmo invece sentirvi su cosa ne pensate, insomma, sulla rete di solidarietà che si attiva mediamente per queste grandi emergenze, purtroppo, e si verificano anche un po' troppo spesso. E allora Gianni Milesi, presidente del CESVI, l'Associazione Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, siccome piove sempre sul bagnato, naturalmente le emergenze umanitarie non finiscono mai, voi già eravate piuttosto impegnati in questo periodo con la drammatica crisi del Maghreb, con la Libia, appunto i paesi del Nord Africa che sono stretti nella morsa di guerre civili e rivolte interne, e adesso ovviamente c'è anche il Giappone. Partiamo un po' con la Libia, insomma, cosa state facendo in questo territorio in questo momento, come vi si può supportare anche finanziariamente? Beh, come CESVI abbiamo già aperto una raccolta fondi per questa emergenza Maghreb, soprattutto concentrata sulla Libia. Abbiamo portato degli aiuti alimentari in Cirenaica, li abbiamo distribuiti nelle scuole delle periferie più povere di Bengasi e purtroppo ieri siamo stati costretti a ritirare il personale italiano da Bengasi verso Tobruk, in modo che sia più vicino al confine, perché la situazione è un po' in evoluzione, insomma, e troppo i fatti di questi giorni dimostrano quello che temevamo, cioè che siamo di fronte a un'emergenza di lungo periodo, insomma. La crisi libica avrà delle conseguenze più drammatiche che negli altri paesi dove sono in corso delle rivolte. Ecco, tra l'altro, proprio perché eravate particolarmente impegnati a gestire la questione libica, sul diciamo territorio giapponese voi direttamente, a prescindere dal fatto dell'organizzazione appunto più complessiva di Agire, non siete partiti diciamo immediatamente con delle iniziative individuali rivolte proprio al Giappone, ma siete al momento, come dire, si naviga a vista, c'è un monitoraggio comunque anche da parte di CESVI. Ed esattamente CESVI che tipo di attività svolge, Presidente? Ma in realtà lavoriamo molto orientati sui paesi più poveri del mondo, lavoriamo su iniziative di lungo periodo, nelle emergenze cerchiamo, come dire, di impostare già un lavoro che vada alle radici, quindi non ci limitiamo alle attività assistenziali, quindi di solito si tratta di capire quali sono le organizzazioni locali che più possono diventare protagoniste di fasi successive, non solo dell'emergenza immediata ma anche come dire, come ricostruire la società. Per esempio, noi oggi abbiamo una crisi alimentare che si sta profilando appunto nelle zone della Cirenaica, a Bengasi, sta cominciando a mancare i generi di prima necessità e soprattutto ci sarà un'esplosione del sistema sanitario dovuto alle conseguenze della guerra, ai feriti. Che cosa succederà quando verranno a mancare gli stipendi? Cosa succederà quando quella società esploderà? È chiaro che a questo punto ci saranno nuove istituzioni, ci auguriamo, che prenderanno il loro posto. Bisognerà aiutarle a ricostruire e immaginare un futuro di speranza per tutti. Certo. Bertotto, vorrei tornare da lei, appunto, a ritornare all'attività complessiva di Agire, questa azione di coordinamento generale di tutta una serie di organizzazioni che fanno capo a voi. Vogliamo ricordare quali sono? Io prima ne ho citata qualcuna, ma per chi non conoscesse Agire, ma conoscesse solo ed esclusivamente individualmente le associazioni che fanno parte della vostra organizzazione. Allora, sono 12 organizzazioni: ActionAid, AMREF, AVSI, CESVI, CISP, COPI, COSV, GVC, Intersos, Save the Children, Terdesom e VIS. E fondamentalmente Agire è un network di emergenze che, sul modello di quello che già avviene in altri paesi europei, cerca di canalizzare e rafforzare la capacità di mobilitazione delle organizzazioni umanitarie sulle emergenze più gravi, unificando gli appelli di raccolta fondi, migliorando la capacità del sistema di comunicare ai donatori e lavorando anche sulla rendicontazione, quindi investendo sulla trasparenza, sulla qualità degli interventi come strumenti capaci di dare fiducia ai donatori e di consentire una piena conoscenza di come vengono utilizzati i fondi raccolti. Certo. Direttore, molto spesso si pensa, questo mi ricordo che capitò soprattutto quando ci dovemmo occupare a lungo, purtroppo per molte giornate lo abbiamo fatto, della tragedia, quella dietro casa nostra, quella dell'Aquila, e molte persone molto spesso sono portate a pensare che è bene sostenere queste associazioni attraverso, non lo so, la donazione per esempio di abiti smessi, di portarvi direttamente casse d'acqua da portare verso queste popolazioni. Molti sono un po' più scettici sulla devoluzione diretta del denaro appunto alle vostre organizzazioni. Ci può aiutare appunto a chiarire i dubbi su chi pensa che appunto il sostegno si possa fare anche attraverso una modalità nobile sicuramente e diretta come quella che indicavo, ma che non è così che si procede, perché per voi è del tutto inutile che vi si porti valigie piene di abiti che non si portano più in casa, ma è ben appunto è meglio la risorsa finanziaria, insomma, sembra scontato, ma forse va ribadito questo punto. Assolutamente sì, ferma restando come dire, la nobiltà delle motivazioni che spingono le persone comunque a contribuire, a volte con denaro, a volte con disponibilità a portare materiale, c'è un principio di base che è quello della velocità e dell'efficacia, e la velocità si ottiene soltanto spostando risorse e non invece mettendo in piedi dei meccanismi che dal punto di vista della logistica e della rapidità di intervento finiscono spesso per essere controproducenti. Si crede ad esempio che semplicemente raccogliere medicinali sia il sistema più efficace. Beh, in molti casi la spedizione di questi medicinali implica autorizzazioni, ha delle difficoltà legate poi alle indicazioni contenute all'interno del medicinale, i cosiddetti bugiardini. A volte c'è la difficoltà logistica nel far arrivare i materiali e non ultimo, noi crediamo che laddove possibile acquistare in loco i materiali sia una forma di sostegno alle economie locali che, certo, soprattutto in situazioni di disastro umanitario nei paesi più poveri, costituisce uno stimolo ulteriore alla ripresa economica del paese. E poi non ci dimentichiamo anche tutte le questioni appunto sanitarie. È chiaro che anche magari vestiti nuovi per queste popolazioni in difficoltà sono ovviamente migliori, perché magari è sempre meglio che far transitare da una parte o dall'altra dal globo appunto magari abiti già smessi, che chissà dove sono stati custoditi, con tutto, ripetiamolo, ha detto anche Bertotti, rispetto per chi vuole dare anche questo contributo attraverso questa modalità, ma poi ci sono anche le condizioni igienico-sanitarie appunto da aspettare, da rispettare in maniera assolutamente scrupolosa. Io saluto Bertotto, Marco Bertotto, per essere stato con noi, quindi lo lascio, gli chiedo di darmi la disponibilità degli ultimi minuti che abbiamo a nostra disposizione per Della Longa, Beccegato e Milesi. Adesso ci fermiamo, ci sono i suggerimenti perché in viaggio, poi c'è anche un ascoltatore, tra poco. Allora, per sostenere i volontari e tutto il mondo della solidarietà, ma non solo, che si è messo in moto per aiutare la popolazione giapponese in queste ore drammatiche, anche molte aziende si sono attivate. Abbiamo appreso questa mattina, per esempio, che Apple ha iniziato una campagna di raccolta fondi per la popolazione giapponese. Si può andare sul sito della società appunto tecnologica e capire come fare. Ci sono delle donazioni che partono da $5 fino a 200, peraltro in molti hanno detto, ma insomma, perché chiedere denaro alla popolazione quando Apple poteva sicuramente permettersi di fare una donazione per conto suo, ma magari l'ha già fatta e magari non l'ha fatto sapere, e in questa maniera cerca di così coinvolgere i suoi magari appassionati clienti di tecnologia anche in questa raccolta. Quindi insomma, volevo fare anche questo inciso, perché ho trovato anche delle polemiche su questo, ma insomma il mondo delle polemiche non muore mai, non si addormenta mai. Sentiamo Pino da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo, buongiorno. Pino, grazie. Senta, io volevo dire questo: c'è il rischio in questa situazione di dare quasi per scontato che una popolazione, un popolo tecnologicamente avanzato si possa salvare da solo, e poi che cosa tipicamente italiana, che quando solamente c'è il lamento così pietoso ci debba essere il soccorso. Secondo me il Giappone ha dimostrato, sta dimostrando una grandissima dignità, ma proprio perché l'aiuto va dato e soprattutto va canalizzato, non va disperso. Non lo possiamo fare direttamente, non ci possiamo mettere in viaggio, andare in Giappone a portare lì le cose, lo dobbiamo canalizzare attraverso queste istituzioni che sono fondamentali. Certo. Ma ha bisogno, secondo me, proprio ha bisogno, sia perché i danni sono enormi, bisogna tenere vivo il problema, perché, e secondo, perché esiste veramente un sentimento nobile, direi, di solidarietà mondiale, che deve esercitarsi anche veramente nei confronti del Giappone. Pino, grazie, lo so bene, insomma, anche perché guardando le immagini che abbiamo visto in questi giorni sui telegiornali, effettivamente per molti di noi i piccoli problemi che abbiamo sono diventati davvero microscopici. Gian Antonio da Verona, rapidissimo, grazie. Sì, buongiorno. Volevo intervenire per dire che se qualcuno ha visto le immagini, cioè, di questi giorni, credo che il suo stato d'animo sia stato all'inizio quello di poter dire come posso contribuire. Sì. E in questo senso qua mi piacerebbe che ci fosse un numero unico, se possibile, per poter fare delle offerte immediate. E poi una centrale che possa smistare per tutte quelle, a partire dalla Protezione Civile Italiana, che partirà per dare aiuto alle varie croci rosse, bianche, a tutti quelli che andranno sul territorio, sanno che possono avere questo, diciamo, questa centrale che può dare loro dei, cioè, dei fondi, e quindi, cioè, concentrare tutto su un numero solo, non in centinaia di rivoli, almeno all'inizio. Gian Antonio, io devo salutarla, guardi, perché ho un minuto e mezzo di tempo, vorrei fare almeno una chiusa con gli ospiti che sono rimasti con noi. Abbiamo capito appunto la sua idea di coordinamento anche in questo, però comunque le organizzazioni sono tante, sono tutte super professionali, ognuna magari anche specializzata in un campo piuttosto che in un altro, per cui magari ognuno dona rispetto anche a quella che è la sua sensibilità di vicinanza rispetto a queste associazioni. Allora, facciamo fare una conclusione intanto a Tommaso Della Longa di Croce Rossa Italiana. Sì, allora intanto un ringraziamento a voi per lo spazio e agli italiani che vorranno donare alla Croce Rossa Italiana. Quello che noi vogliamo dire è che in questo momento quello che serve è aiutare le persone che già stanno lavorando sul campo, un intervento di emergenza molto importante, e per questo è giusto supportare la nostra consorella giapponese. Benissimo, un riferimento per quello che vi riguarda, Della Longa, monitoriamo il vostro sito per vedere quando sarà pronto l'SMS solidale? Assolutamente sì, appena sarà pronto l'SMS solidale sul nostro sito, che ripeto è www.cri.it, troverete tutte quante le informazioni, e stiamo anche già approntando una parte del sito speciale per l'emergenza giapponese. Benissimo, grazie a Tommaso Della Longa, portavoce del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. Vado a Paolo Beccegato di Caritas Italiana. Lo ricordo, Caritas ha già stanziato 100.000 euro, e poi avete tre banche a cui poter far riferimento, Beccegato, e anche attraverso la carta di credito è possibile sostenervi. Sì, tutti i dettagli sono sul nostro sito, anche il conto corrente postale e tutti i mezzi Magari questo lo do, il numero 347013, specificando nella causale emergenza Giappone 2011. Ci sono degli ascoltatori che ci stanno scrivendo, ci chiedono come fare delle donazioni, quali sono le associazioni, se ci si può fidare. Io metto la mano sul fuoco per tutte quelle che stamattina erano qui con noi: Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana, tutte le organizzazioni che aderiscono ad Agire e anche il CESVI Milesi, concludo con lei, impegnati in Libia, in particolar modo adesso, come ci ha raccontato. Vuole rivolgere un messaggio conclusivo ai nostri ascoltatori? Sì, non dimentichiamoci appunto delle emergenze dimenticate, anche se in questo momento ha ragione l'ascoltatore che ci ha ricordato come la dignità dei giapponesi richieda tutta la nostra solidarietà e come dobbiamo sempre ricordarci che la terra è una grande casa comune e tutti noi abbiamo un pezzo di responsabilità anche per chi è dall'altra parte del mondo. Vi riconvoco tutti fra qualche giorno e magari così raccontiamo come stanno andando le donazioni che arrivano attraverso i vostri canali. Noi andiamo adesso invece all'appuntamento di Salvadanaio in collaborazione con il Salone del Risparmio, che si svolgerà a Milano il 6, il 7 e l'8 aprile. In vista di questo appuntamento abbiamo istituito un servizio di segreteria telefonica 828 12 12, dove ci potete lasciare le vostre domande sul tema del risparmio gestito. Oggi, grazie all'ausilio degli esperti di Assogestioni, iniziamo a rispondere alle domande che abbiamo ricevuto nella nostra segreteria. Radio 24 e Assogestioni presentano le domande del risparmio. Sì, buongiorno, sono Roberto da Firenze. Avevo una domanda da porre. Il mio consulente mi ha proposto di investire parte dei miei risparmi in un fondo bilanciato. Potete spiegarmi cortesemente di che si tratta? Assogestioni ha classificato i fondi comuni di investimento a partire dalla loro nascita in base al peso delle attività finanziarie prevalenti nel loro portafoglio, dunque in base alla loro composizione. La classificazione prevede attualmente 5 macrocategorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, liquidità, flessibili. In particolare, i fondi bilanciati sono fondi che possono investire il proprio patrimonio sia in obbligazioni sia in azioni. Possono investire in azioni in una quantità variabile tra il 10 e il 90% del patrimonio del fondo. In base alla percentuale investita in titoli azionari, i bilanciati si differenziano esclusivamente in relazione al peso della componente azionaria, si possono individuare le 3 categorie di suddivisione. Bilanciati azionari. Azioni in portafoglio comprese tra il 50% e il 90%. Bilanciati. Azioni in portafoglio comprese tra il 30% e il 70%. Bilanciati obbligazionari. Azioni in portafoglio comprese tra il 10% e il 50%. Salone del Risparmio a Milano dal 6 aprile. Iscriviti gratis. salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato le domande del risparmio. Mi ha preso a tradimento la coda del Salone del Risparmio. Io ringrazio tutti gli ospiti del mondo della solidarietà che sono stati con noi questa mattina. Monitoriamo le iniziative che si stanno prendendo per sostenere la popolazione giapponese stretta nella morsa di questo drammatico evento che si è consumato appunto nelle ultime giornate. Allora, grazie a tutti per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata.